Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Allora sì, ripartiamo proprio da qui, perché accolto dal lungo applauso nell'emiciclo di Strasburgo il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha parlato questa mattina davanti agli eurodeputati, un intervento anche in vista del semestre di presidenza italiana. Toni decisamente europeisti, come d'altronde ci si attendeva da Napolitano, accolto, dicevamo, dal lungo applauso e contestato invece, lo avete sentito in GR24, dagli eurodeputati della Lega Nord, tra cui il segretario Matteo Salvini. Le prossime elezioni saranno un momento di svolta, ha detto Napolitano, chiedendo quella che ha definito una politica veramente europea. Allora sentiamone un estratto. Mai era stata messa in questione e radicalmente in questione la prosecuzione del cammino intrapreso. Questo è invece il contesto nel quale ci si avvia alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Un momento della verità da affrontare fino in fondo e in tutte le sue implicazioni. Il tema di una svolta capace di condurre a quell'effettivo rilancio della crescita e dell'occupazione da ogni parte considerato indispensabile e auspicato. Si ritiene cioè che non regga più una politica di austerità ad ogni costo. Ad accogliere Napolitano il presidente del Parlamento europeo Schulz, che ha colto l'occasione per mandare un messaggio. Sentiamolo. Nel suo discorso di fine anno ha citato tra gli altri un messaggio di Veronica, una ragazza di Empoli di 28 anni. Veronica sente che la crisi attuale è in realtà una crisi della capacità di suscitare entusiasmo nei giovani. E concludo. Io credo ancora nell'Italia, ma l'Italia crede ancora in me. Anche a me è stata posta la stessa domanda durante la mia visita. Lo credo ancora nell'Europa, ma l'Europa crede ancora in me. Penso che sia il nostro lavoro come politici dire con la forza dei fatti sì a Veronica e agli altri milioni di europei che si stanno ponendo la stessa domanda. E sul fronte economico i dati a dicembre 2013 rispetto al mese precedente, i prezzi della produzione industriale sono in rialzo dello 0,2% sia nella zona euro che nell'Europa 28, in calo l'Italia a meno 0,1%, dice l'Eurostat, i maggiori cali in Estonia, Lettonia e Lituania, gli aumenti più marcati in Spagna, Repubblica Ceca e Svezia. E il Parlamento europeo ha votato intanto questa mattina le nuove norme che prevedono sanzioni penali più severe, comprese pene detentive per gravi abusi di mercato, come l'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e divulgazione illegale di informazioni. Parlamento europeo che poco fa ha espresso un altro voto dicendo stop all'omofobia e avanti con una tabella di marcia per arrivare a garantire in tempi certi la tutela dei diritti fondamentali delle persone lesbiche, gay, bisessuali. E quanto chiede il Parlamento europeo, risoluzione approvata, dicevamo poco fa, 394 voti a favore, 176 contrari. Tra i temi in agenda alla plenaria di Strasburgo c'è anche la vicenda Ucraina. A Kiev oggi è arrivata nuovamente anche il capo della diplomazia europea Catherine Ashton, incontrerà nel pomeriggio l'opposizione e le autorità ucraine, la discussione si protrarrà anche domani. Sulla situazione e sul senso della missione europea Valeria De Rosa ha intervistato Niccolò Rinaldi, eurodeputato, vicepresidente dell'Alleanza dei Democratici per l'Europa. La situazione è estremamente complicata sul terreno, però va detto che da una parte Yanukovych ha mantenuto un atteggiamento molto prudente, ragionevole, e cercando di non alzare il livello dello scontro. La pressione diplomatica, oggi la Ashton arriva a Kiev, è comunque molto, molto forte e si spera di poter arrivare a un accordo che comprenda da una parte elezioni anticipate, presidenziali o parlamentari o entrambe. Ricordiamoci che le presidenziali sono previste per il 15 e le parlamentari addirittura per il 2017 dall'altra parte un aiuto finanziario tanto dall'Unione Europea quanto dal Fondo Monetario Internazionale concertato, e sotto questo profilo ci sono già contatti forti tra Washington e Bruxelles per cercare di raddrizzare l'economia ucraina, che in questa crisi ne sta uscendo ancora più appesantita da tutto questo blocco del paese rispetto a quello che già era. Infine arriva la Carta Europea dei Diritti del Malato di Cancro, presentata oggi in occasione della giornata mondiale con la partecipazione della Commissaria Europea per la Salute, Tonio Borghe. Il documento è realizzato grazie ad una forte alleanza tra associazioni di pazienti, esperti e il sostegno dell'Associazione degli Europarlamentari contro il Cancro. Ci fermiamo qui per ora, ma come sempre vi ricordo, l'Europa vi aspetta ad Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.